avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme. Oggi dichiaro immediatamente che sarà una trasmissione autocelebrativa. Oggi parlerò della radio e del suo pubblico, perché non c'è nessuna particolare ricorrenza, così mi gira, questa mattina vado a parlare della radio. Sono ancora profondamente, radicalmente, visceralmente stupito dalle sorprese che ogni mattina mi dà venire a parlare a questo microfono, eppure lo faccio da una ventina d'anni circa, è una vita che parlo alla radio. Faccio esattamente le stesse cose che facevo 20 anni fa, dico le stesse cose, ho lo stesso pubblico, tratto gli stessi argomenti. Voi direte, sarebbe ora che tu cambi. Sì, sarebbe ora che io cambi, ma la radio non cambia mai. La meravigliosa caratteristica della radio è rimanere sempre la stessa, di adattarsi come si adatta l'acqua a un terreno scosceso, alle fattispecie del tempo, del luogo, della qualità e dell'immaginario in cui si adagia, ma la radio è sempre la stessa. Questa mattina vorrei dimostrarlo assieme al nostro pubblico. Pubblico mi dà continuamente grandi sorprese. Ne approfitto velocemente per rilanciare l'idea che lanciammo con Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento, qualche giorno fa. Dateci testimonianza delle tracce del Risorgimento che sta a casa vostra. Siamo letteralmente sommersi da oggetti, da foto, da panopli, da ricordini. In questo momento abbiamo ospite del nostro studio una meravigliosa portatrice di pipa di Nino Bixio, che ce l'ha portata qui calda per farcela vedere e per esporla al Museo del Risorgimento. Quindi anche voi, se avete oggetti simili, qualcosa che ricorda il Risorgimento, cominciate a darci notizia, vedrete, ne faremo una fantastica e meravigliosa mostra. Ma questo in pochi giorni, in maniera così radicale, così passionale, così viscerale, sarebbe stato possibile farlo soltanto alla radio. Non esiste un mezzo di propagazione del pensiero, di diffusione di un'idea, di un immaginario così potente come la radio. Eppure antichissima, eppure semplicissima. Semplicemente un signore che si mette a parlare davanti a un microfono e tante altre persone che lo ascoltano. Oggi lo ascoltano attraverso un'infinità di modalità, lo ascoltano attraverso un antico desueto apparecchio radiofonico dove con lo smalto da unghie la vecchia ancora sopravvissuta fa il segno della stazione affezionata a cui è affezionata e sempre quella ascolterà fino al momento in cui tirerà le cuoie. Oppure l'ascoltano attraverso il telefonino, attraverso l'autoradio, attraverso il computer, attraverso il podcast, quindi ti sentono indifferita, uccidendo anche l'ultimo impero che è quello della contemporaneità. A me sta bene questo. 800 24 00 24. Oggi parliamo di radio. Voi mi assalite come un branco di lupi affamati perché non sopportate la vostra realtà e il vostro modo di essere. Sì, il mondo è un posto veramente terribile. Sì, il cancro e le immondizie vi sommergeranno. Sì, la guerra sta arrivando. Il mondo è andato al diavolo e voi siete tutti fregati. È tutto sotto sopra, ma a voi sta bene così, no? Che sareste senza di me? Io vengo qui ogni sera, vi dico come la penso, vi dico le cose in cui credo. Vi dico quello che siete e devo farlo, non ho altra scelta. Io vengo qui e vi distruggo, io abuso di voi, io vi insulto e voi mi dite fallo ancora di più. Ma che vi prende? Perché continuate a telefonarmi? Non voglio sentirvi più, non chiamate! Andate via! Siete solo un branco di bigotti senza spina dorsale, un branco di miserabili alcolizzati. Siete divorati dall'insonnia, paranoici. Io che sto ancora guardando gli sms residui degli ascoltatori che ieri sera ci avevano con il collega Cruciani, non posso che condividere questo pensiero che coglie il conduttore radiofonico un'infinità di volte. C'è questo rapporto viscerale di amore e odio di un pubblico che in realtà ti dà lavoro, ti fa vivere, ti sostiene, ti mantiene, riempie di vanagloria il tuo ego e il tuo meschino orgoglio. Allo stesso tempo ti fa arrabbiare continuamente, ogni minuto, perché lo trovi così distante dal tuo modo di pensare e così attento, visceralmente, pericolosamente attento a ogni tuo respiro, a ogni tuo pensiero, intuiscono il tuo stato d'animo, dicono oggi non sei in forma, oggi c'è qualcosa che non va. I più affezionati adesso attraverso questo feedback è terrificante che è Facebook, già mi stanno scrivendo dicendo quale ingresso grande, mi dice Tamara. Cioè questo rapporto è molto di più che con un amante, molto di più che con una moglie, molto di più che con un amico, e con un collega indissolubile, con un fratello siamese. È qualcosa ti dà vita, ti dà sostentamento, ti dà l'orgoglio ogni mattina di esistere, ma allo stesso tempo ti annichilisce. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo e faremo per tutta la durata trasmissione assieme a te modo di collazionare l'esperienza vivace, carnale di un conduttore radiofonico e del suo pubblico con la rappresentazione che ne ha fatto il cinema. Questo fantastico monologo preso da Talk Radio, chi rappresenta? Questo è il conduttore radiofonico che ha la chioma riccia, le pupille febbrili e la voce appunto paranoica di Eric Bogosian, che chiuso nel suo studio, nella penombra del suo studio, davanti alla nudità della sua voce, confrontandosi con la vertigine del proprio io, davanti a una Dallas illuminata, si confronta con le mille voci, la miriade di voci di paranoici, di psicopatici, che sono un po' l'alimento del suo programma. Lui ha scelto di virare verso le confidenze più astruse, quelle più devianti, che sono linfa del suo programma, però allo stesso tempo cominciano a trascinarlo in un gorgo. È una sorta di spirale questo film che poi lo porterà alla morte. Una storia reale ispirata alla storia di Alan Berg, che fu ucciso da un neonazista, ma è che era una delle varie appunto voci che lui, a cui dava ospitalità. Fu ucciso con un omicidio che è quasi un atto d'amore. Lo uccide perché si sente allo stesso tempo troppo indagato dentro. Questo è il rapporto perverso che capita molte volte. Ho visto in passato molti colleghi cadere vittima di questo rischio, quando il conduttore radiofonico, per proprio la viscerale intimità che è il rapporto tra radio e il proprio pubblico, comincia a sentirsi investito quasi di un potere taumaturgico. Come quando io scherzo dico che se sollevo le donne rimangono incinta, che è una chiara e banale baggianata. Ma molte volte uno ha l'illusione, siccome è molto facile parlare alla radio, è molto facile millantare conoscenze, profondità, tutti mi dicono la tua è una cultura smisurata, ma non leggo un libro da 30 anni, figurati. Però è facile, sai, con Wikipedia accesa davanti, con un po' di maniera di chiacchierare, due appuntini così, uno può far finta di averci 50 lauree. 800 24 00 24, che ne pensate? Fatemi sapere il vostro punto di vista. Il mio questa mattina lo dipanerò come le viscere di un animale squartato senza nessun pudore. Good morning Vietnam! Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll! E dunque si roccheggia e si roleggia dal Danang al Mememe Kong! Ma sono io, vi sembra quel vecchio film di Elvis Presley? Viva Danang! Oh, viva Danang! Danang me, why don't you get a rope and hang me? Ehi, è un po' prestino per fare casino! Ahi, m'è scappata! Sono le 6 antimeridiane, che vorrà dire quest'anti? Anticristo, come presto! Parlando di anti, che ne dite di quel DJ antidiluviano Marty da infarti? Grazie per il tuo sangue vellutato, ma io non sono Peggy Lee. Allora che ne dite? Good morning Vietnam, ma che diamine dovrebbe significare? Non lo so, tenente, secondo me significa good morning Vietnam. E chi ha dato il permesso di mandare in onda musica moderna? Freddy and the Dreamers. Questo è un altro taglio, un altro punto, un altro stile di conduzione che non mi è mai appartenuto. Il conduttore brillante, il conduttore allegro, in una fattispecie molto particolare che è quella della guerra. Pochi giorni fa abbiamo parlato di radio e guerra con Andrea Lavendel, abbiamo visto quanto la radio ancora rimanga strumento essenziale, fondamentale per comunicare e scomunicare, per confondere ed informare. È il più ambiguo e il più importante strumento in un tempo di guerra. In questo caso si parla di una radio in Vietnam che serviva per tenere alto il morale delle truppe. Sansonna. Sì, qui sbarca Robin Williams a Saigon e cerca di, nel pieno 65, in piena guerra. Ferma un attimo, scusa, noto un assopimento bestiale del pubblico questa mattina, che hanno modo di dire la loro, di esprimere ogni parere, di poter finalmente essere autoreferenziali nel loro ruolo fondamentale, il sostentamento della radio, ascoltandola, dando linfa vitale, dando patologico apporto e importante contributo creativo, se ne stanno bene zitti. Ma è tipico del pubblico radiofonico, è un omicidio rituale come quello appunto di Talk Radio. Anche loro provano la vertigine davanti all'horror vacui, no? Insomma, comunque, tornando al film, abbiamo un sacco di film che ce ne importa, andiamo avanti lo stesso. Robin Williams qui appunto cerca di evocare un mondo altro fra il napalm, fra la distruzione, fra la marcescenza del Vietnam, e soprattutto cerca di svecchiare la musica e di portare la musica rock in un contesto molto tetro che è quello dell'esercito, quindi, ma soprattutto la capacità attraverso l'epica, la parola, di evocare un'altra dimensione, di lenire il dolore, la voce che flauteggia e lenisce il malessere della guerra. Guarda, uno dei format radiofonici più fortunati, che ancora qualche residuo anagrafico degli ascoltatori ricorda, è la famosa sorella radio. Io mi ricordo, ero piccolissimo e già mettevo le mani sui miei piccolissimi attributi quando mi costringevano a sentire sorella radio, che era la radio per gli ammalati, la radio che andava nelle corsie d'ospedale. Grande rispetto, ma farle sentire a un bambino. Che programmazione. Era, era la prima confezione artistica del dolore. Poi venne la televisione, che divenne specializzata in questo. Ma era la radio che confortava chi soffriva, chi aveva dei problemi. Era radio dedicata appunto alle corsie d'ospedale. Ma quindi aveva un impianto di preghiera? Per paradosso, la RAI delle origini, pur essendo fortemente catechetica e confessionale, non era così esplicita, perché non erano ipocriti, erano veri credenti, quindi non avevamo bisogno di millantare e ostentare. Era un programma molto serio, realmente non c'erano altre maniere per sostentare le persone o per dare l'idea di abbraccio affettuoso attraverso un medium. Non c'era la televisione, non c'era altro. Mettevano la radio, c'erano persone che parlavano, raccontavano storie, c'era musica, però lo ricordo come qualcosa che mi opprimeva. Un bambino non vuol sentir parlare di sofferenza, è giusto che non senta parlare di sofferenza. Fabio, buongiorno. Buongiorno. Oh, primo ascoltatore coraggiosissimo questa mattina. No, una sola battuta, perché io ho la fortuna di fare un... No, ne faccio un po' di più così riprendo fiato, che ho la voce stando in giro. Io volevo fare solo una battuta, che era di complimenti a Cruciani, a Nicoletti, a pochi altri. Perché ma sa che Cruciani che io odiamo i complimenti, quindi ci sta facendo un affronto. Lo stimo perché avete il coraggio di fare le trasmissioni che cercano intanto di scovare degli argomenti interessati, ma soprattutto anche di dire la vostra senza paura dell'ascoltatore. Trovo molto banali la media dei conduttori radiofonici musicali, di radio più musicali, e anche con un target più giovanile, perché li trovo, leggono il giornale, dicono una battuta e pensano che questo faccia una grande novità. Beh, è un altro genere, è la radio commerciale, importante, perché quelle radio sono dei contenitori di musica, vivono sulla musica, sono dei jukebox. Il conduttore deve essere una persona che in 10 secondi dica due scempiaggini che non facciano pensare, riflettere, per precedere la canzone. No, però lo vogliono fare, perché vanno a cercare la notizia, vanno a sperare, cioè, ma anche gente importante di cui non faccio i nomi, che vediamo sia in TV che in radio. No, può anche guardi, non c'è nessun problema. Fare dei nomi, perché poi ognuno fa bene il suo mestiere. Io sono ipercritico in questo caso, perché sto attento a certe finezze di comunicazione secondo il mio gusto. Non credo che sia sufficiente a leggere un giornale, dare delle notizie, pensare di aver fatto una grande informazione riflessiva, ma neanche di grande originalità, voglio dire. Vabbè, però guardi, siccome quella è l'esigenza di una radio commerciale, c'è spazio anche per loro. Guardi, io non ho generalizzata stima per l'umanità, quindi per molte persone è molto meglio avere una radio che non imponga di pensare. Io mi rendo conto che quello che facciamo noi è un'articolazione sulla realtà, è un punto di riflessione, richiede un po' di sforzo. Mi ha detto che tutti si debbano sforzare, per non sforzarsi esistono un'infinità di medicamenti, di presidi clinici, e quindi la gente che ama non sforzarsi ascolta la radio senza sforzo. Grazie Fabio. Denise. Sì, buongiorno, mi scusi l'emozione, grazie per questo spazio. Io volevo ricordare la radio di denuncia di Giuseppe Impastato, e ho in mente proprio il film bellissimo che conservo a casa, che ogni tanto mi guardo, e diciamo che... Non faccia male a quella povera creatura, però... Sta protestando. Ma cosa sta facendo? Gli sta tirando le orecchie? No, è in braccio con me. Ma quanti anni ha? Quanti mesi, anzi? No, mesi, 10 mesi. E suo figlio? Sì, mia figlia, sì. E per cui, ecco, devo ricordare... Ma deve allattarla, qualcosa del genere? Sì, la sta allattando ancora. Ah, la sta allattando, ce l'ha attaccata al seno? No, in questo momento no. Vabbè, gli detta un ciuccio qualcosa, perché sta strillando come un'ossessa, poverina. Sì, perché vuole anche lei dire la sua. Beh, l'ha già detta. L'ascoltiamo con grande attenzione. Comunque, e per concludere volevo dire anche un'altra cosa. Ma qual è il film di cui lei parla? Al di là di questo che volevo ricordare... No, dica il titolo, così mi permette di fare il colpo di scena. Il titolo del film? Sì. i 100 passi. Ecco, ferma, non si muova. Ed ora parlerà il signor sindaco. Allora, illustri colleghi, oggi all'ordine del giorno l'approvazione di un palazzetto abusivo di rimpetto all'aeroporto. E quanto sarà alto questo palazzo? E che ne sa, c'ho 4 piani, 5, 6, 7, 8, un grattacielo tipo in Chicago. Non esageriamo, e poi l'aereo da dove passerà? E che minchia me ne fotte degli aerei, cambiassero rotta oppure ci costruiamo un bello tunnel. Ma sentiamo l'inno nazionale di Mafiopoli. Ci sono delle reminiscenze di Cettola qualunque nel sentire questa cosa. Giuseppe Sansone, intanto Denise resti in attesa e dia la tetta alla bambina un minuto solo. A me faceva in mente una riflessione sulla satira. Ecco, questa era una satira. Di solito io non amo in generale la satira perché la trovo sempre buffa, consolatoria. Ecco, quella che faceva Peppino Impastato era una satira appunto sul tritolo, cioè decisiva, terribile, che attraverso lo scherzo riuscì a cogliere, a bucare il cuore mafioso e poi provocò una reazione terribile. C'è un doppio passo per un certo tipo di conduzione: innanzitutto volontà di mettersi in gioco in maniera rischiosa, qua non è esprimere il proprio parere alla radio in maniera che cosa rischio io? Niente, tutto al più qualcuno protesta e chiede una rettifica, ma impresari di pompe funebri, cose del genere, robetta da poco, lì sì, si rischia la pelle. Seconda cosa, una capacità appunto di esercitare quell'arte sottile e ambigua della satira che richiede delle qualità di tipo interpretativo che non tutti hanno. Denise, l'abbiamo appagata? Sì, anche perché mi sembra un giusto tributo. Volevo aggiungere un'altra cosa, questa è una mia... No, penso mia quando personale. Io sarò morto che faranno dei giusti tributi, no, facendo ascoltare dei pezzi di Melog. No, volevo dire che comunque per me la radio è proprio una... cioè è proprio un affetto che provo, nel senso che per me è diventata ormai un'abitudine alzarmi tutte le mattine, accendere la radio, naturalmente su Radio 24, e non mi ha pagato nessuno. E non l'ha pagata proprio... nessuno? No, mi sto facendo pubblicità. No, ma è proprio quasi un affetto, nel senso che ascoltando... È quasi un amante, via, lo dica, tanto ancora la figlia è piccola. No, che l'ascolto tutte le mattine, per cui... Vabbè, la devo segare, sennò sembra che ci lusinghiamo. Si dedichi a sua figlia ancora finché è piccola, poi fra un po' cresce, potrà dedicarsi un po' a lei, gliela auguro, così avrà consolazioni anche più concrete della radio e continuerà a ascoltare. Fabrizio. Sì, buongiorno, buongiorno. Eccolo. Non c'è niente da dire? Sì, no, no, è che non l'ho sentita per un attimo. No, io volevo solo dire questo, che secondo me la radio, a parte la compagnia immensa che fa chi è sempre spesso in macchina, ha la possibilità di far capire le persone con cui non si è d'accordo, per esempio come Cruciani, che io ammiro tantissimo, e gli impedisce di cambiare la stazione, a mio modo di vedere. È quasi ipnotica, cioè le persone che odiano tra virgolette... No, quando ci sono conduttori con le palle la radio si ascolta volentieri, quando sono sì, dei conduttori soporiferi si ascolta lo stesso, ma uno non se la ricorda. Sì, soprattutto quando poi non si è d'accordo, lo stimolo è proprio quello di voler intervenire per dire la propria... dissonanza rispetto a quello che sta dicendo il... La maggior parte della radio che viene fatta oggi è una radio in cui tutti si deve essere d'accordo, in cui signora, esatto, prendo atto del suo parere, non la voglio contraddire, in realtà è giusto quello che dice, mai fare nulla per... però sa com'è, ogni tanto è anche bello avere persone che un pochino abbiano sì, un po'... Grazie Fabrizio, arrivederci, andiamo avanti con i nostri film dedicati alla radio. In quei giorni a casa nostra la radio era continuamente accesa, mia madre per esempio non si perdeva mai il suo programma preferito, Colazione con Irene e Roger. Buongiorno, caro. Passami il succo d'arancia, ti prego. Eccolo. A che notevole prima siamo intervenuti ieri sera, vero? Oh, sì, non è stato divino, c'erano proprio tutti. La Roger si è alta col porter. Sì, caro. E che dire delle incredibili toilette. Incredibili, caro. E che dire delle incredibili... C'erano due mondi completamente diversi. Mentre mia madre faceva i piatti a Rockaway, Irene e Roger consumavano il loro raffinato breakfast in onda a Manhattan nella loro elegante casa di città, chiacchierando amabilmente di persone e luoghi che noi potevamo solo sognare. Domani mattina vi racconteremo tutto questo e anche della nuova pièce di Mozart, che mi dicono è una cosa di... Devo dare velocemente la linea all'informazione della borsa, quindi prenderemo con Sansone il commento da questo film epico, una pietra miliare della storia della radio, che è Radio Radio Days di Woody Allen. Film che io giudico deleterio per la radio contemporanea, perché la immobilizza, la cristallizza, una sorta di icona del passato che, ahimè, non dà ragione e non dà senso alla sua estrema capacità invece di rinnovarsi continuamente, pur rimanendo lo suo schema. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sidney, questo è il nostro primo appuntamento. Oh, beh, tu sai quello che provo per te. Interrompiamo questo programma per trasmettere un comunicato straordinario. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza. Passiamo la linea a Wilson Glen, New Jersey, dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. Sì, sì, ciò che stiamo vedendo è orribile. Non credo ai miei occhi. La gente muore, viene calpestata nel suo disperato tentativo di fuga. I cavi dell'energia elettrica abbattuti ovunque. Potrebbe mancare da un minuto all'altro l'energia elettrica. Non ho mai visto niente di così. C'è un altro stormo di navi spaziali. Navi spaziali di alieni che sbucano dal cielo. In contrasto con la sua precedente baldanza, il signor Manulis, preso dal panico, schizzò fuori dalla macchina. Era così spaventato dalla cronaca... 800240024, stiamo riprendendo il filo di Radio Days, di Woody Allen, di cui abbiamo parlato in chiusura della prima parte. Questo è l'episodio stranoto dell'invasione degli extraterrestri, dei marziani, millantata da Orson Welles, ma è diventato un episodio che segna una pietra miliare nella storia della radio. Il potere affabulatorio, fantastico, divinatore della radio permise allora di gettare panico. Facemmo qualcosa di simile nel nostro piccolo un anno fa, quando in periodo di panico diffuso per una delle tante influenze fantagiornalistiche, raccontammo che il morbo degli zombie si stava diffondendo anche nel nostro paese. Ci furono signore che amarono terrificate, temendo la mutazione in cadavere vivente dei loro cari. Vorrei istigarvi questa mattina a chiamare l'800240024, non soltanto per dirvi cosa vi piace e non vi piace di Radio 24, l'avete già detto, ci fa un immenso piacere, ve ne siamo grati, ma raccontate episodi concreti della vostra esistenza legati a un momento radiofonico, qualcosa che avete fatto, che vi hanno fatto, che avete subito, siete stati costretti a fare o avete piacevolmente fatto ascoltando la radio. Quale radio, in che momento, qual è l'accompagnamento radiofonico in momenti rituali della vostra giornata? Giuseppe Sansonna, Radio Days, il tuo punto di vista, mio l'ho detto. Il Radio Days, lui analizza l'età d'oro della radio americana, quella degli anni 30 e 40, e coglie proprio questo aspetto di cui parlavi, ovvero la onnipresenza quotidiana della radio. Qui abbiamo sentito un estratto in cui c'è la zia del piccolo Woody Allen che è in macchina, ferma nella nebbia con questo energumeno che cerca di approcciare, pronto, ha fermato la macchina, e quindi è una situazione particolare, intima, dentro l'autovettura, e irrompe la voce di Wells che legge la guerra dei mondi. Era in procinto dell'intima d'azione, ma viene congelata da questo annuncio. Congelata da questa irruzione aliena che è solo finta. Tra l'altro, a proposito di questo, qualche tempo dopo Wells stava leggendo la radio Walt Whitman e irruppe la vera notizia di Pearl Harbor, solo che siccome c'era Wells in onda, permettero che fosse un nuovo scherzo, per Roosevelt gli scrisse un telegramma: a forza di gridare al lupo, vedi che non ci crede più nessuno. Però tornando a Radio Days, comunque analizza la quotidianità, la permanenza di questo mezzo che soddisfa ogni elemento della casa, dai gusti della madre, dai suoi, che ascoltava la Mount Cruston, il Vendicatore Mascherato, The Shadow, e si immaginava chissà chi al di là del microfono. Invece era un omarino piccolino che incarnava questo eroe tenebroso. Beh, non a caso io mi sono sempre ispirato nel descrivere il rapporto fra conduttore e percezione del medesimo che ha il pubblico a Il Mago di Oz. Il conduttore radiofonico è come l'omarino nascosto dentro il simulacro del Mago di Oz, che lo muove con leve, pulegge, manopole, emette fumo dalle narici, è una figura terrificante. E quando il cagnolino di Dorothy sposta la tenda, dentro c'è un omettino ridicolo, piccolo, un umarell. Quindi noi siamo degli umarell dentro una macchina fantastica che dà senso, esistenza, possenza, estrema misurata virilità la nostra voce, quando in realtà siamo dei poveri omini che vanno a fare la spesa, puliscono per terra, vanno a riprendere i figli a scuola. Però allo stesso tempo non c'è nulla di più nudo della tua voce, quindi è il massimo dell'illusione, è il massimo dell'autenticità che coesiste, una sorta di paradosso quello della radio. Non a caso i televisivi incalliti quando fanno radio si trovano in difficoltà, perché non hanno trucco, non hanno belletto, non hanno luce, non hanno inquadratura, non hanno copione, sono loro stessi. Ecco, una cosa che capisce immediatamente chi fa radio è che la radio sia veramente nudi, non non puoi bleffare. In questo momento sono attizzato perché c'è la portatrice di pipa di Nino Bixio dall'altra parte, quindi sono allegro. Ma altri giorni, tristi, piovosi, è un onere insopprimibile fare la radio. La gente se ne accorge, quindi essere professionisti significa cercare il più possibile di nascondere il proprio stato d'animo, ma allo stesso tempo farlo vedere, appalesarlo, esserne orgogliosi anche nella impudicizia di mostrare ciò che molte volte non è bello mostrare. Luisa. Pronto? Eccomi. Buongiorno. Senta, io credo che ogni radio abbia il proprio stile. E le dirò, quando ho incontrato Radio 24 Ore ho scoperto una radio di cavalli di razza. Nessuno escluso. E quello che mi dispiace, a volte mi irrita veramente, sono gli interventi pietosi di chi non ne capisce lo stile. Non è possibile, anche con Melog, io ho dovuto imparare con calma. Ma lei non ha sentito che l'ho detto 30 secondi fa di non parlare di noi, ma no, di parlare no, no, di ma io non intendevo parlare di radio, cioè dello stile di una radio che ha veramente dei cavalli di razza. Non è una bella radio perché sei riuscita a darsi uno stile, non è semplicissimo, bisogna lavorarci molto. Voglio dire, com'è possibile intervenire in queste trasmissioni a piede teso, senza capire che lo stile è tutt'altro. E poi per forza. Ma noi siamo tutti contenti quando la gente interviene a piede teso, mi scusi. No, perché no, ci sono veramente delle persone. Me lo lasci dire il mio mestiere. Ma guardi, queste critiche assurde, ma imparate, ma state solo a sentire. Io forse abituato a una radio di 70 anni fa, sì, dove si ascoltava, si capiva, si cercava. Sì, ma lei pensa che noi siamo dei sacerdoti o degli esseri vicini all'immagine platonica del filosofo. Cavalli di razza, non mi piace solo perché il cavallo. Ma questo di rapporto tra cavallo e razza e giumenta non è proprio che esattamente no, lo sento come tale. No, ma lei capisce cosa voglio dire. Capisce benissimo cosa voglio dire. Voglio dire che siete mi pare conduttori molto particolari, e questo molto particolare è il bello di questa radio. Vabbè, siamo contenti che lei ci consideri così, ci fa piacere. Non ha voluto raccontare nulla di suo personale, non si è messa in gioco, noi lo facciamo continuamente, lei no. Ci ha fatto un bellissimo complimento, siamo contenti. Avrei preferito qualcosa di molto più personale, vediamo se Davide fa di meglio. Allora, signor Nicoletti, per la prima volta. Signore morto in croce, mi chiamo. Gianluca. Non puoi però cominciare una trasmissione dicendo che è autocelebrativa e poi non volere i complimenti. Oggi un po' li devi beccare. Comunque non te li voglio fare. Allora, ma non sono fuori gioco, parliamo della radio, è qualcosa, è un contenitore astratto di infatti, entità infatti, transeunti infatti. Come anche me. Allora io sono 2 anni che cambiando lavoro sono finito obbligatoriamente in macchina per gran parte del tempo. Sono un musicista, quindi normalmente per me la radio era... E passi il tuo tempo in macchina? I miei pezzi. Passi il tuo tempo in macchina, come fai a suonare stando seduto? No, faccio musicista dalle 6 in poi, per diletto diciamo. Comunque amo la musica, amo sentire i gruppi che suonano. E quindi ecco, tutt'altro di quello che faccio io? Tutt'altro che quello, però sono 2 anni e devo dire grazie anche a voi, a te. Tant'è che oggi, come mai sei l'unico che non parla di sta Libia? Non parlo, no, ci ho parlato l'altro giorno. Sei una parentesi. Guarda, devo dirtelo, fa male più a me che a te, credimi, mi fa veramente male. Sandro, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno tuo ospite. Diciamo l'aspetto più interessante della radio, ed è quello che veramente mi attizza e mi incuriosisce ogni giorno quando la sento, è il fatto che comunque chi sta dalla parte del microfono riesce sempre a costruire una scatola con un prodotto all'interno che poi io che l'ascolto la mia parte scarto e interpreto come voglio. È un po' mi ha anticipato quando dicevi dell'omino di Oz, che viene manovrato con alcuni fili che poi si scoprono essere un po' anche aleatori. La figura che ricopre il conduttore radiofonico è veramente misteriosa e mi sa sempre comunque di un qualcosa di truffaldina. Ma giustamente, cioè, è colto in pieno. Noi viviamo un'esistenza truffaldina, sì. Viviamo un'esistenza basata sul millantare cose che non abbiamo, ma è anche il nostro mestiere. Sì, ma no, giustamente. No, infatti mi faceva sorridere prima il commento della signora che diceva professionisti. Si fa ridere anche a me. L'importante, sai qual è? L'importante è non crederci. L'importante è che non ci crediamo noi. No, no, d'accordo, d'accordo. E anche dichiararlo apertamente e onestamente. Sì, sì, no, ma... Sbatto di quello che faresti normalmente. Adesso sganci un dollaro come tutti gli altri. Grazie. Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted, cui seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro Kay Billy. Canzonna che è molto anni 70, almeno nell'aspirazione, nel suo maglione marrone, si sente elettrizzato da questa musica. Di cosa stiamo parlando qua, Giuseppe? Queste Le Iene di Quentin Tarantino del 92, e qui per la prima volta il regista elegge la radio come fra i protagonisti del film. Kay Billy Super Sound degli anni 70 diventa una sorta di filo conduttore, di cornice che irrompe nella trama del film. Addirittura l'ascoltano un po' tutti i gangster coinvolti, poi parlano di Madonna, parlano delle varie star che passano in questa radio, e addirittura verrà alzata nella scena, una delle scene clou, quella del taglio dell'orecchio ad opera di Michael Madsen nei guardi del poliziotto, che è la scena migliore legata alla radio che ricordi nella storia del cinema. Appunto, al tempo di Stuck in the Middle with You, appunto ondeggiando e basculando con il rasoio in mano, fino a parlare l'orecchio, appunto, a mezzo radio. Io lo dico ogni volta che azioniamo la motosega, ho in mente quella scena, so che un rasoio sonoramente era difficile da realizzare, quindi abbiamo sostituito con la motosega, ma penso che non aprite quella porta, la motosega, ti ricordi la famiglia che di cannibali che gira, sì, per l'America, quello potremmo metterlo, potremmo appunto annoverarlo per 800 24 00 24, a tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Dunque, ci hai fatto caso che le gallerie delle autostrade sono più strette della misura dei treni? Più strette della? Della misura dei treni. Un camion, un carro armato, un cargo di carro pesante non può passare per queste gallerie. Mi segui? Ecco, io sono andato un attimo indietro con la mente quando ho fatto Roma-Milano, Milano-Torino. E in effetti ci aveva ragione l'Etiope. Un carro armato da qui a Torino, sull'autostrada, non ce lo possono far passare. Ma guarda che ti sbagli. No, lascia perdere quei determinati tratti che ci sono quelle aperture incredibili. Ma per il resto, un carro armato sull'autostrada non ci passa da qui a Torino. Questo sembra un dialogo radiofonico attualissimo, poi in realtà è datato. Giuseppe Sansone. Questo è Cebombo, e quindi testimonia del periodo in cui la nascita delle radio private permetteva al solipsismo individuale. Le radio libere. Sì, sì, sì. Le radio libere permetteva al solipsismo individuale di sbracare, ognuno di raccontare i propri intimi dubbi e rovelli. Vabbè, erano radio quasi condominiali, nel senso, però c'era questa formula che era l'assaporare la vertigine da mago di Oz da parte del conduttore, diventava psicologo, analista politico soprattutto, era una radio molto politica, quindi poteva esprimersi su grandi questioni di politica internazionale, capito? E gli ascoltatori erano questo sfogatoio, non gli sembrava vero, oltre il prete non soddisfava più, e lo psicoanalista che costava, o il compagno di sezione rionale, hanno trovato la radio che diventava una grande espressione. Questi erano gli Yardbirds, ora abbiamo una telefonata in diretta. Pronto, come ti chiami? Mario. Ciao Mario, come stai? Come sto? Sto male. Hai una carica molto negativa oggi, eh? Diciamo che al limite sto così. Però io sentivo che le risate tue, lui che cercava di essere allegro, lo capisco. Perché io ho fatto finta fino a un paio d'ore fa. Io sono rientrato da 2 ore e ho fatto finta. Adesso la mattina quando esco faccio finta, vado a prendere un caffè e faccio finta, fumo una sigaretta e faccio finta, dico 2 parole in una certa maniera e faccio finta. Stasera un'altra mazzata l'ho avuta tipo facendo un incontro, ho incontrato un etiope, un mio amico, studente universitario, etiope, e ci siamo incontrati dopo diverso tempo, lui adesso ha preso la laurea. Ecco, sembra impossibile, devo dire che questo fu geniale, Moretti. Non amo in particolare il suo cinema, ma Cebombo fu una pietra miliare, perché fotografò sul nascere una tendenza la cui coda lunga ancora, se sentiamo un sacco di radio, sentiamo alcuni programmi anche della radio pubblica più, diciamo, elitaria, c'è ancora questa cosa qui, l'essenza negativa, questo psicologismo d'accatto, imparicciato, sentito, leggiucchiato, raccontato dagli amici e dalle amiche, via dicendo, e questa profondità, questo pipparolismo mentale portato a livello di genialità. Sì, la dimensione confessionale allargata, slabbrata fino allo sfinimento, con ognuno che poi cerca di avere un'opinione su qualsiasi cosa, questo è il fondamentale, poter dire, esprimere una parola poi su tutto. Ma per esempio, non so se tu hai mai incrociato il fenomeno delle TV romane, delle radio romane, quelle deliranti che parlano di Lazio e Roma, che sono un mantra continuo che va dall'alba a notte fonda. No? Dice, è la radio preferita dei tassisti romani. E lì parlano di tutto. Cioè, una volta c'era uno che telefonava a uno di questi conduttori, che è un vecchio picchiatore fascista con molti trascorsi, no? E questo gli telefonava e diceva: ciao, scusami, sono emozionato che sto a parlare con te. No? C'era anche una sorta di intimità che si creava fra queste figure estreme di viriloidi. Per molti ascoltatori parlare con il conduttore è una rottura dal loro livello del quotidiano, entrare in una sorta di sancta sanctorum. Sapessero che un cialtrone come loro, che finita la radio, corre adesso a prendere la metropolitana. Mariella. Pronto, saluto tutti, sono emozionata naturalmente. Comunque la mia è una testimonianza. Ma perché siete emozionati? Non tollero emozionata di cosa, scusi? Rispetto a queste cose truculente che state dicendo, parlando di radio oppure cose un po' strambe. Che ho detto di truculente? La cosa è molto Perché mi piacerebbe tagliare l'orecchia con la motosega, ma è l'espressione di un qualcosa che una volta detto uno si libera. Lei è simpaticissimo, mi fa tanta compagnia tutti i giorni. Comunque, non parli così, che sembra che parla con suo sorriso, cioè non voglio far compagnia io. No, ma mi fa compagnia la radio, non solo la sua trasmissione, tutta Radio 24, anche qualche altra radio, perché trascorro un sacco di tempo in cucina, quindi ascolto voi e anche la politica. Siamo un elemento del suo soffritto. Comunque, quello che volevo dirle è una cosa ingenua, molto semplice. Allora, è importante che si sappia che io ho 69 anni, perché questa testimonianza risale ai primi anni 50 e io ero una bambina ancora. Beh, con i miei fratellini minori, che non so poi cosa capissero granché, si sentiva sempre una trasmissione alla radio che era Michele Strogoff, dall'omonimo romanzo, e mi piaceva tantissimo e seguivo tutte le puntate. C'è una scena bellissima in cui la cercano con la spada arroventata, ma lui come piangeva perché avevano appena frustato con il Knut, la vecchia madre, le lacrime l'hanno salvato l'accecamento. No, non devi dire questo, perché questo io poi l'ho scoperto in seguito. Insomma, vabbè, l'ultima, se no la devo segare perché ci sono altri ascoltatori, mi scusi la mia implacabile spietatezza. No, ma i suoi 69 anni non la salvano dalla motosega. Marina. Sì, buongiorno. Eccomi, veloce. Allora, velocissima, voglio appunto raccontare un episodio che risale alla mia infanzia, avevo 5-6 anni, e noi eravamo abituati a pranzo a sentire il giornale radio. E un giorno, era gennaio del 61, diedero la notizia della morte di Fausto Coppi. E Fausto Coppi era... Siamo un proprio sull'attualità. Prego? No, siamo sull'attualità, mi interessa. Sì, certo, però è un episodio che appunto così risale alla mia infanzia. Il suo padre si è commosso? No, perché erano amici d'infanzia, erano erano cresciuti assieme. È morto Coppi e il padre gli è dispiaciuto moltissimo. Grazie Marina. Giuseppe Sanzonna, chiudite con una battuta che ho un groppo alla gola. No, è appunto la commozione, appunto l'irruzione del grande evento nella vita privata, l'abbiamo appena ascoltata in questa ascoltatrice. Ecco, mi fa piacere sentire che c'è questa freschezza, questo ricambio generazionale di pubblico, e la radio ci dà molta speranza. Grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Fabrizio Intonti, grazie alla portatrice di Pipa di Nino Bix, ci sentiamo domani. On est reparti dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.